Il punto di Stefano Folli. Forse la domanda da porsi oggi non è quanto durerà il governo Letta o quando andremo a votare, piuttosto il quesito dovrebbe essere: conviene davvero a Matteo Renzi presentarsi sulla scena politica come il grande destabilizzatore, come il personaggio nuovo la cui priorità non è far funzionare meglio le istituzioni ma affrettare la corsa verso le urne? Su questo Renzi, abilissimo comunicatore, è ancora ambiguo. I suoi ultimatum al governo non sono a ben vedere veramente tali, eppure l'immagine che si è costruita intorno a lui è questa: l'uomo degli ultimatum. Invece quello che serve è che Renzi metta la sua energia e le sue idee, spesso originali, sul tavolo di un autentico e non retorico accordo con Enrico Letta sulle cose da fare. Ce ne sono tutti i motivi. Ieri Grillo, riproponendo l'impeachment di Napolitano, ha fatto capire in quale clima si svolgeranno le prossime elezioni europee, e la tragedia di Prato ricorda che anche sul tema della legalità e dell'immigrazione clandestina gli italiani aspettano risposte da chi governa e non altre parole al vento.